Innanzitutto quella che riguarda gli adempimenti per il rinnovo del permesso di soggiorno, nel senso che chiedono sia ai richiedenti che ai titolari di una qualche forma di protezione o rifugio politico, la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria, della documentazione che riguarda l'alloggio e sono o il contratto di locazione registrato, il consenso all'ospitalità da parte del proprietario dell'alloggio e via discorrendo, cioè della documentazione che per questa particolare categoria di cittadini stranieri non è richiesta dalla legge. La legge dice che va solo fatta una dichiarazione dell'indirizzo dove si abita, ma non nessun ulteriore adempimento proprio in considerazione della particolarità della condizione giuridica di queste persone che sono per l'appunto richiedenti asilo o titolari di una qualche forma di protezione. Questa documentazione nel momento in cui non viene consegnata impedisce il rinnovo del permesso di soggiorno con tutte le gravi conseguenze che ci possono essere per un cittadino straniero che è privo di permesso di soggiorno, visto che c'è anche il reato di soggiorno irregolare o illegale. L'altra questione riguarda la tempistica per i rinnovi dei permessi di soggiorno, nel senso che la Questura di Bologna per sofferenze oggettive di organizzazione, ma è un problema che va risolto a livello della pubblica amministrazione, a livello del Ministero, dà gli appuntamenti per la richiesta del rilascio, del rinnovo a mesi di distanza, senza rilasciare nessun attestato che valga come permesso provvisorio in tutto questo lungo periodo e questo impedisce alle persone di esercitare qualsiasi diritto sociale, ma anche per esempio di lavorare e di avere, cioè sono illegali, non hanno la prova della presenza regolare sul territorio nazionale e anche questo è un paradosso. Ripeto, noi capiamo le difficoltà organizzative della questura, però è un problema che il Ministero deve risolvere, non può essere a danno del cittadino straniero, della richiedente asilo in particolare. Sul primo punto io ricordo che qualche tempo fa Iabasta aveva raccolto una serie, aveva fatto appunto una denuncia e il tema era stato sollevato nella precedente legislatura anche in un'interrogazione dell'onorevole Paglia proprio al ministro dell'Interno. Quindi insomma sono pratiche, in particolare per i documenti richiesti sulla casa, che vanno avanti da un po'. Sì, che vanno avanti da tempo, solo che si aggravano sempre di più perché noi abbiamo provato a cercare di convincere singolarmente, insomma, a cercare di convincere la Questura di Bologna che non è una documentazione prevista dalla legge, siccome nessuna pubblica amministrazione può integrare quello che il legislatore ha stabilito per la condizione giuridica dello straniero, dopo vari tentativi, se non abbiamo nessun risultato, adesso vedremo come agire. È chiaro che poi la problematica può portare anche a un aumento del contenzioso giudiziale, perché nel momento in cui non mi rilasci il permesso di soggiorno sulla base di un requisito che noi riteniamo, secondo legge, totalmente illegittimo, l'unica possibilità in assenza del permesso di soggiorno è di andare davanti all'autorità giudiziaria e questo comporta un aggravio giudiziale. Abbiamo visto, insomma, dall'estate scorsa uno sostanziale blocco dei flussi, la mole di lavoro però negli uffici della Questura è ancora molto alta? È ancora alta, nonostante i flussi siano diminuiti, cioè proporzionalmente dovrebbero essere diminuiti anche gli accessi alla Questura di Bologna, ma ripeto, sia che siano in aumento sia che siano in diminuzione, se il fenomeno, se la realtà anzi è questa, la pubblica amministrazione si deve adeguare, non c'è una soluzione intermedia. Se manca il personale, se non c'è una struttura anche fisica forse adeguata a ricevere tutte le persone che hanno bisogno di avere il permesso di soggiorno perché la legge lo impone, è un problema che lo Stato deve risolvere. Non può essere messo a pregiudizio dei diritti della persona, proprio non c'è una soluzione. Dovrebbero, secondo me, semplificherebbero anche anche il livello organizzativo della questura, se si adeguassero, cosa che devono fare obbligatoriamente, a quello che prevede la legge, cioè ricevere semplicemente la dichiarazione della persona straniera che va a richiedere il permesso di soggiorno di dove abita, di qual è la sua dimora, qual è il suo domicilio, eviterebbero anche che per una stessa posizione o la persona direttamente interessata o il suo avvocato vada varie volte in questura per cercare di convincerli ad adeguarsi alla legge. Anche quello è un gatto che si morde la coda, perché se io ci devo andare 5-10 volte per una persona, è chiaro che aumenta il flusso di richieste che vengono fatte alla questura, ma anche questo dovrebbe essere un po' una soluzione da uovo di Colombo, no?